cos'è, cosa c'è? Non so, dimmi tu a me, fammi capire cosa c'è, perché io, sempre il primo a fare tutto, vengo sempre accusato perché sono distrutto. Se per una sera che non mi va di uscire, vengo cazziato e mi vengono a dire cose che sono veramente di un mondo che personalmente mi sa di stare in fondo. Oh, che ricorda sempre come mi sono comportato, perché chi vuole rispetto lo deve aver guadagnato, e io che per voi mi sono sempre sacrificato, alla fine vengo sempre ringraziato. Questa oggi è la compagnia, un gruppo di persone che un giorno c'è e l'altro va via, nessuno che fino alla fine ti è fedele, pronti ad abbandonarti per un posto a sedere, gente che guarda solo i propri interessi e che a te non pensa, tanto sono gli stessi, come un'ansia di pensieri che fanno male. Con queste persone andrei a relazionare, perché ogni giorno ti metti nei guai pensando che loro non ti abbandoneranno mai. Li chiami amici e gli vuoi tanto bene, anche se ogni cosa buona ha le sue pene. Gli dai consigli e gli provi ad aiutare, e non li vuoi sentir nemmeno ringraziare. Tu per loro ci sei sempre ed è così, loro per te non ci sono mai, sì. Pensi che su certe cose ci puoi anche passare, ma non sai per quanto altro tempo potrai sorvolare. L'appuntamento mancato, l'invito rifiutato, e qui è stata la prima volta che hai pensato. Li ritieni importanti, anche potenti, ma loro ti vedono come uno stuzzicadenti. E poi inizi a pensare addirittura a cosa loro di te possano dire. Per una sera allora ti fai desiderare, ed ecco gli insulti che iniziano a volare. Io a gente come te non gli do importanza, con persone come te fare una grande stanza. Hanno ragione a dire di non parlare con lo scemo che al suo livello ti fa abbassare. Adesso che hai capito e hai rotto una grande amicizia, sei troppo orgoglioso per rifare un patto. Tu che da solo pensi di essere una primizia, per me non sarei mai uno scacco matto.